Infanzi infantis, latinezko hitzak, ume txikia esateko erabiltzen denak, mutua esan nahi luke jatorrian. Infanz da, beraz, literalki hitz egiten ez duena. Il termine latino infans, infantis, che si utilizza per indicare il bambino, in origine significa muto. L'infanz è, letteralmente, colui che non sa parlare. Il termine persona, invece, in latino significa maschera. E persona è ciò che sentiamo dall'altra parte della maschera. Suona attraverso. Persona. La voce è quello che nascondiamo. Lo scrittore africano David Bright divenne sordo all'età di 7 anni. All'inizio non si rese conto della perdita dell'udito. Alcune sordità sono difficili da percepire, scrive nelle sue memorie, perché gli occhi iniziano fin da piccoli e in modo incosciente a tradurre i movimenti in suoni. Mia madre passava tutto il giorno con me e io pensavo di ascoltarla. E non poteva essere diversamente, perché avevo passato tutta la vita a leggere le labbra di mia madre, senza rendermi conto che stavo leggendo. Quando lei parlava, a me sembrava di ascoltare la sua voce. E quell'illusione falsa è continuata anche dopo essermi reso conto che ero sordo. Mio padre, i miei cugini, tutte le persone che conoscevo avevano una voce fantasma, virtuale. Ho fatto fatica ad accettare che fossero tutte voci che mi ero immaginato, proiezioni della mia memoria e dell'abitudine. Un giorno, mentre stavo parlando con mio cugino, lui si coprì la bocca con una mano, senza smettere di parlare. All'improvviso, il silenzio. E così capì, una volta per tutte, che se non vedevo, non potevo sentire. Si è soliti dire che i pesci sono gli ultimi a capire cos'è l'acqua. David Wright vedeva le voci, non le sentiva. Tenendo in considerazione che la persona è una maschera, per paura che gli avversari vedano la sua voce, anche l'allenatore Mourinho, quando un giocatore di riserva entra in campo, gli dà ordini coprendosi le labbra. Quindi Wright a 7 anni perse l'udito. Qual è invece la situazione delle persone non udenti dalla nascita? Da sempre ci sono state 2 scuole. Quella che vuole insegnare alle persone sorde il linguaggio dei segni e coloro che invece vogliono insegnare a parlare, i cosiddetti oralisti. Lo scontro è iniziato quasi 200 anni fa. Gli oralisti, o quelli favorevoli alla demutizzazione, passavano l'intera vita a insegnare una lingua, cosa che richiedeva una dedizione totale. Un insegnamento lungo e faticoso, e ogni insegnante poteva lavorare con un unico alunno. Nel caso dei segni, invece, un unico insegnante poteva avere centinaia di alunni. Gli oralisti sostenevano che il linguaggio dei segni condannava i sordi a vivere in un ghetto e si chiedevano se invece non fosse più importante insegnare a leggere le labbra e parlare. Ma la lettura delle labbra non è solo una questione di tecnica. Nella lettura delle labbra un 75% sono ipotesi, una supposizione, un'intuizione, un contesto. E quindi un'ispirazione, pertanto immaginazione e fantasia. Uno degli oralisti più convinti fu Alexander Graham Bell, l'uomo che brevettò il primo telefono. Sua moglie e sua madre erano entrambe sorde, ma non avevano mai accettato la loro sordità, la loro identità di persone sorde. Graham Bell era totalmente contrario al linguaggio dei segni e nel 1880, in un congresso che si tenne a Milano, riuscì a farne proibire l'uso. I sordi avrebbero dovuto imparare a parlare. Chi ha assistito a una messa per sordi sa fino a che punto possono essere toccanti quelle cerimonie. In alcune chiese ci sono addirittura cori che usano il linguaggio dei segni. È un'esperienza straordinaria vedere come una dozzina di persone, tutte insieme, riescano a sincronizzare perfettamente i loro gesti. Soiora zeguanian ez zuan usteko baina lehenago bazan indarra beta gizona ere bikaina altu bajuak daude munduan ez zera ordu prima di parlare. Questo è l'invecchiare. Prima, quando era in forma, non ci avrebbe pensato mai. C'era forza nella persona, prima c'era. Ci sono alti e bassi nel mondo. Non sei all'altezza di prima. Anche i capelli sono caduti e la mente alleggerita. Adesso non puoi governare il verso, improvvisare, quando non vali più. Forse è inutile provare. Sarò più giovane di voi, ma il mio tempo è finito. I versi che abbiamo appena sentito sono di Manuel Ustapide. Ustapide era un berciolari, un improvvisatore di poesie, un'attività molto seguita nei Paesi Baschi. Un berciolari dalla voce ferma, forte. Ma quando nel fronton di Anoeta arrivò il suo turno, davanti al microfono si bloccò e rimase muto. L'uomo che era stato la voce del berciolarismo dal dopoguerra in poi, muto. Era il 1972, aveva 64 anni. José Mari Riondo gli presentò il tema da trattare in poesia. Voi state invecchiando e dietro di voi arrivano i giovani. E lui cercò di iniziare a cantare. Iniziò e si fermò. Non poteva più dire quello che voleva dire. Fece altri due tentativi, ma niente, impossibile. Si girò e tornò a sedersi. Tutti stupefatti. Applausi. Niente. Accanto a lui era seduto un altro Berciolari, Lopateghi, che gli chiese: «Cosa ti è successo?» E lui rispose: «È stata una novità». Una novità. Utilizzò il termine novità per descrivere un brutto momento. E dopo un minuto pare che abbia aggiunto: «Bene, è passato». Quando cercò nuovamente di cantare, al suo fianco c'era Goro Chateghi, il quale raccontò di aver notato in quel momento una vena rossa rossa sulla sua testa e le labbra violacee. Si disse che aveva avuto un infarto. Tuttavia, Ustapide continuò a improvvisare versi. Quando lo festeggiavano, si presentava in compagnia di un giovane, il ragazzo del muto, come l'accompagnatore per i ciechi. Componeva i versi per iscritto e il giovane li cantava al posto suo. Da allora in poi avrebbe usato una voce in prestito. Abbiamo le immagini del momento in cui Ustapide si bloccò e non riuscì più a cantare. Orain, Manuel Ustapide, etorri mesedez. Manuel, gazteak sarritan aitatzen dira. Zuk ba alduzu gazteetan itxaropenik, esperantzik. Erantzuna hiru bertsotan. Thank you. une bandez galditu sikera lasaitu bat da segi aurrera que hacen plafí se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Que hastío ahora. Aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana, se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae todavía, no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va a plaf. Julio Cortázar, idazlearen ipuina genuen hori, software informatiko batek esana. Gaur egungo ahots sintetikoak ez dira jada lengoak bezalakoak, robot gixakoak. Aski naturalak baizik. Si trattava di un racconto di Julio Cortázar, che abbiamo potuto ascoltare grazie a un software informatico. Le voci sintetiche che si possono realizzare attualmente non sono più quelle di un robot, sono invece abbastanza naturali. Quella che abbiamo appena sentito era una voce sintetica, una voce artificiale messicana, in grado non solo di sembrare una voce umana, ma anche di sedurre. Le voci dell'aeroporto prima erano dei doppiaggi, adesso no. Sono voci create in laboratorio e non appartengono a nessuno. Tuttavia, non sempre succede così. Per esempio, non è così nella metropolitana di Madrid. Il presentatore di Radio Nacional de España, María Jesús Álvarez, e il traduttore Javier Dotú hanno portato in tribunale il cantante Manu Chao per aver utilizzato la loro voce senza permesso. Manu Chao gli aveva rubato solo tre parole, ma le aveva utilizzate in più di un'occasione nelle sue canzoni. Solo tre parole. A Javier Dotú, la voce spagnola di Al Pacino, Warren Beatty, Jack Nicholson e Tom Hanks, aveva rubato le parole «prossima estación» e a María Jesús Álvarez una sola parola, ma di un certo peso. Esperanza. La speranza, questa puttana vestita di verde, come era solito dire Cortázar. Manu Chao ha ammesso l'errore e ha dovuto risarcirli pagando la multa impostagli. Cortázar paragonava la cannibale metropolitana di Parigi a una bestia, un drago, un minotauro. Forse, per vendetta, bisognerebbe mettere nei treni la voce seducente di Cortázar, soprattutto nei giorni di pioggia, per renderli di nuovo affascinanti per i viaggiatori. Sono 6.000, è terribile come giovedì. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras decrece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Viviamo circondati da voci. E non sempre queste voci sono piacevoli. Liurarik ez, ez dago itzuntzerik, egun artean dago aize hotza dakar. Ez da izango beste goizerik. Egun artean dago aize hotza dakar. Ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez. Bizitza ez da uskeria. Edan ase arte beretik ez da aski izango. Galtze har zaudelarik. Edan ase arte beretik ez aski izango. Galtze har zaudelarik. Kontxolatzerik ez. Denbora ez da luzea. Ustelak lurpera bizitza daundiena. Galtzea itzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza daundiena. Galtzea itzake galtzea dena. Lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, lararai, c'è niente di più facile che odiare i propri vicini, soprattutto vivendo in case di legno, perché parlano a voce troppo alta, perché alle due del mattino cantano e ballano al suono di quell'insopportabile musica baciata, perché i loro cani abbaiano e fanno versi a tutte le ore, perché non sanno uscire di casa senza sbattere la porta, perché quando chiudono la porta ognuno gira due volte la chiave della doppia serratura facendo rumore, come se la stessero frustando. Sarà per i ladri, come se invece delle cipolline nel frigorifero tenessero diamanti. Ma in realtà quello che abbiamo sono pareti di carta, quasi dei teloni, e un'infinità di spettacoli dei vicini che si è obbligati ad ascoltare che lo si voglia o no. A volte doppie rappresentazioni. Nella nostra casa è sempre il giorno dello spettatore, scusate, dell'ascoltatore. La voce dei vicini ha qualcosa di simile alla voce della coscienza. Quelle eco vicine, le vibrazioni, da dove vengono? Salgono dalle travi di legno o da terra? Provengono dal piano di sopra o da quello accanto, dall'atrio dei vicini o dal proprio. È vero, lo ammetto, odio le case di legno così permeabili. Odio la mia casa. volte, tuttavia, ci riconciliamo con i vecchi sottotetti di legno. Oggi, giorno in cui Mikel Laboa, il precursore della musica basca, è morto improvvisamente nel silenzio del mattino, il legno delle travi mi ha portato con la notizia la sua canzone Lilurari Kes. Perlomeno non era baciata. Sono rimasto pietrificato. Ho cercato di capire da dove provenisse quella canzone. Cosa? Come? Ho pensato a tutti i miei vicini, senza riuscire a capire chi potesse aver messo una canzone del genere. Quelli dell'1B? No. E il 4C? Impossibile, non conoscono la lingua basca. Quelli del 5D? Improbabile, hanno dei pessimi gusti. Quando la canzone è finita, io stesso ho messo un altro brano di Mikel Laboa. Izarren Aucha, polvere di stelle. Sono qui, ti ho sentito, passo, ho detto al mio vicino. Di nuovo il silenzio. Probabilmente anche il vicino sconosciuto è rimasto stupito e ha scelto per rispondermi la canzone Now es tu, facoltà de sentir. Di nuovo Mikel Laboa. A continuazione gli ho lanciato l'invito di Betantik Bentara, da una locanda all'altra. E se avessimo continuato ad offrirci reciprocamente delle canzoni, parlandoci tutta la mattina attraverso voci che non sono le nostre ma prese in prestito da altri? Però nessuno è salito alla mia locanda. Di nuovo il silenzio. Lì si è interrotta la nostra conversazione cantata. Bentara noa, bentatik nator, bentanda neure gogoa. Bentako arroza, grabelinetan, hartu dut amodioa. Bentara noa, bentatik nator, bentanda neure gogoa. Bentako arroza, grabelinetan, hartu dut amodioa. Pare che la prima cosa che dimentichiamo delle persone che se ne sono andate sia la loro voce. I cantanti sono gli unici privilegiati che hanno la possibilità di far fronte a questo oblio. Per questo oggi, quando ho sentito la voce di Mikel Laboa, sono rimasto di pietra nella mia casa di legno, in piedi, senza potermi muovere, come se all'improvviso mi fossero spuntate le radici. Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean, ikusten uzten, orduan txasten bainaiz, izkutukoa nere baitan, bizten diren bazter miresgarriak ikusten. Zer izkutatzen duen ez didanean, ikusten uzten, orduan nasten bainaiz, izkutukoa nere baitan, bizten diren bazter miresgarriak ikusten. baina bazterrak aldatzen doaz eta maite ditut maite, eroskiko zoruan argizaria ematen duten golf karrotxoetako gidariak. Nik autoestopegin eta enzeradora aparkatuta uzten dutenean. Kafe filtroak nondiren Cristobal Kolonek atzarekin Amerika bezala seinalatzen didatenean. Maite ditut maite megafoniako ahotsak. Agurtzane kutsara mesedez, agurtzane errepikatzen dutenean. Naiz ofertan dagoen zereal kaxak, ez didan agurtzane baote datorren ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, agurtzane horri jendea agurtzeko ordaintzen diotela sinisten. Maite ditut maite eroskiko kajerak, haien begiradak, paparreko plakatxora irakurri nahian harrapatzen nauenean, Angelina bezalako izenak dituztenean, travel txartela eskatuetanik, buruz kalkulatutakoa baino prezio bajuagoa esaten didatenean. Amo molto gli autisti delle golf car che danno la cera ai pavimenti dell'Auchan. Quando faccio autostop e parcheggiano la lucidatrice. Quando mi indicano con il dito, come Cristoforo Colombo indicò l'America, dov'è il caffè. Amo molto le voci degli altoparlanti quando ripetono «Per favore, agurzane alle casse, agurzane alle casse». Anche se le scatole di cereali in offerta non mi permettono di vedere se agurzane arriva. E allora comincio a credere che veramente agurzane venga pagata per salutare i clienti. Amo molto le cassiere dell'Auchan, i loro sguardi, quando mi sorprendono a cercare di leggere il tesserino che portano sul petto, quando hanno un nome come Angelina, quando mi chiedono la tessera punti del supermercato e mi dicono una cifra inferiore a quella che io avevo mentalmente calcolato. Ah, vai, vai. Potete applaudire. Too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a man, I can't hear the band at all. Nel febbraio del 1958 Billie Holiday aveva 43 anni e le restavano ancora 17 mesi di vita. Lady in Satin, il suo ultimo disco, aveva ricevuto delle pessime critiche. La sua voce sembrava troppo rauca, troppo rotta, troppo sporca. Oggi invece ci sembra una registrazione arrivataci da un altro mondo. Ma non è questo il suo unico disco da brivido. Mi viene in mente Strange Fruit, un inno contro il razzismo che lei rese famoso. L'aveva scritto Abel Meeropol, un ebreo, maestro e comunista, nel 1939, per denunciare i linciaggi e le impiccagioni di neri che si succedevano nel sud degli Stati Uniti. Ci sono diverse fotografie dell'epoca in cui si possono vedere uomini neri che penzolano dagli alberi. Colpito da questi strani frutti, Abel Meeropol aveva scritto Strange Fruit, strano frutto. Le prime volte che Billie Holiday la cantò, sembrava che non avesse capito il significato antirazzista del testo. e che non le piacesse particolarmente, perché la gente rimaneva muta, come fosse paralizzata. Allora prestò maggiore attenzione e capì di cosa parlava il testo, che cosa rappresentavano veramente quei frutti appesi agli alberi del sud. Con il passare del tempo sentì così sua quella canzone che tutte le volte che la presentava diceva che era stata scritta apposta per lei, che era sua. Menzogna. Per questo l'irascibile Billie Holiday si arrabbiò terribilmente quando venne a sapere che anche il cantante Josh White cantava Strange Fruit, la sua canzone. Raccontano che una volta, dopo un concerto di Josh White, Billie Holiday entrò nel suo camerino, lo inchiodò in un angolo, lo afferrò per il collo e puntandogli un coltello alla gola gli disse: «Quella canzone è mia, Josh, non osare mai più cantarla». Bai fruitu arraroa hegoaldeko zuhaitzetan, odola hostoetan eta odola sustraietan, gorpu beltza dilindan, hegoaizeak lastan, fruitu arraroak zintzilik makaletan, hegoalde kementsuko estampa fina, begi puztuak, aho desegina, magnolien lurrina gozo eta umel, eta bat batean haragi kiskaliaren kiratsa hemen. Fruitua handa, beleek dezaten zampa, euriak harrapa, haizeak zurrupa, eguzkiak ustel, zuhaitzak lurrera bultza. Arraro eta mikatz den usta. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the roof, black bodies singing in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastors sing of the garden south. The burning eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. The sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sigh, for the sun to rise, for the tree to dry. Here is a strange and bitter cry. Negli anni 40, l'epoca in cui Strange Fruit divenne famosa, nelle grandi città statunitensi era molto di moda registrare la propria voce. Per regalare una canzone a qualcuno, per cantargli un tanti auguri a te, con la speranza che poi quella registrazione venisse trasmessa da una radio, o chissà, semplicemente per avere un bel ricordo in un momento preciso. Per aiutarvi a capire, dirò che erano come delle cabine per le foto. Ma invece di una fotografia ti consegnavano un disco di un minuto a 78 giri. in cambio di un quarto di dollaro. Il 7 agosto 1942, il giorno in cui l'esercito statunitense entrò a Guadalcanal, non sappiamo esattamente dove si trovassero e cosa facessero il presidente del governo basco José Antonio Aguirre, José María Lasarte, Telesforo Monzón e Antonio Irala. Il presidente basco e i suoi collaboratori sono in esilio a New York. Questo è sicuro. Possiamo fare delle ipotesi. Forse hanno fatto una riunione in un ufficio di Bowery sopra un ristorante cinese con un rappresentante mandato in incognito dalla Casa Bianca o dalla Segreteria di Stato per via della promessa di far fronte a Franco. Forse invece stanno solo passeggiando alla ricerca di un po' d'ombra per sopportare l'afa di agosto, nient'altro. Perché ad agosto fa davvero caldo a New York e faceva ancora più caldo all'epoca in cui la gente indossava sempre un abito elegante. Il fatto è che sono contenti per qualcosa, gli viene voglia di cantare e vicino a loro vedono una di quelle cabine per la registrazione self-service. Dentro ci sono tre uomini neri che stanno incidendo un gospel. Ma il tempo a loro disposizione finisce. Può darsi che ai baschi la canzone sia piaciuta e che da fuori abbiano applaudito mentre aspettavano il loro turno. O forse hanno applaudito solo per educazione. O forse non li hanno proprio applauditi perché non capiscono la forza del gospel. Forse non si tratta neanche di un gospel, ma di un blues che hanno sentito alla radio. Quando tocca a loro, entrano tutti e quattro nella cabina, o forse non tutti e quattro, perché quattro non ci stanno. Forse due di loro rimangono all'esterno e cantano quel che devono cantare. Chissà. È un po' di albera, è un tagliata cerco, che è l'unico da un cavolo late, altri sembra cerco. È un po' di albera, è un tagliata cerco, che è l'unico da un cavolo late, altri sembra cerco. Io mi si vado in tumba, poi vado a morire. Quase usare la doppia di mia nazione. Io vinti faccio un po', poi volo moria. Quase usare la doppia di mia nazione. Non sappiamo se quando registrarono questa canzone si trovavano sul fiume Hudson o vicino al rugginoso East River. Non sappiamo se registrarono questo disco per sollevare il morale piuttosto basso o per rafforzare il morale già alto a New York, il 7 agosto del 1942, il giorno in cui le truppe americane entrarono a Guadalcanal. Ma la registrazione di questi quattro politici baschi in esilio è giunta fino a noi. Il presidente Aguirre, Lasarte, Monzón e Irala. Potete provare a giocare, chi di voi ha un buon orecchio, a distinguere le voci una dall'altra. Forse la voce principale è quella del presidente, o forse lui si limita a completare il coro. Chi fa il basso? La voce usata per cantare è quella della politica. Sono uguali oppure no? Se ci spingiamo oltre con le ipotesi, possiamo supporre che il turno del gruppo di neri del Bronx non fosse prima, ma dopo quello dei quattro politici baschi. E possiamo immaginare che si siano uniti ai quattro baschi, mentre stavano cantando, mischiando l'Eusko Gudariak, l'inno del combattente basco, con la malinconia del blues, il ritmo sofferto dei vinti. Che l'unico cavolo la te altre registrate si trovano in un'incisione fatta da Léon Azoulay nell'anno 1900 alla Feria Internazionale di Parigi. Parliamo di 110 anni fa. Lì possiamo trovare, tra le altre cose, oltre ad alcuni versi, due irrinzi: Cri de guerre basque ancien, canto di guerra basco antico, come dice la presentazione. Danubio deitzen, ez da Mississippia, Ibai Zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia, ez da Danubioa, ez da Ibai Oria, errekala burme, erdoi urez betea, han ibiltzen ginen aintzina, hango harri pausuetan, ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, Ibai Zabal deitzen da nire sorterriko baia, handik alde eginda, zubirik zubi beti, ez nuen uste berriz topatuko nuenik, orain barru kitzen langeratu den urra barura sartzea, inoiz edan egingo nuen Ibai Zabalekoa, ez da Danubioa, ez da Ganges zaintua, ume den moretako ure erre kaloia, orain mio zetik pasartzen zain, Ibai Zabaleko uruerra, ez da Danubio deitzen, Ibai Zabal da izena, handik urrun ibili bigarren barrura sartu zaidara arrezkero zainetan abinkidan erreka neure ben tako izenez deitzen didan bakarra urzabarrez berritzen dit gogoa ibai zabaleko uru erra larara dai ascoltato la voce di un ser della canzone basca Rupert Ordorica, passiamo a un altro ser, Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle ne aveva, per dirlo in modo elegante, le corde vocali piene di Sherlock Holmes e così decide di farlo precipitare dalle cascate di Reichenbach e di mettere fine di colpo alla storia del più famoso detective della storia. Conan Doyle voleva essere la persona principale e invece il suo personaggio aveva preso il sopravvento. Creare un personaggio e che questo prenda il sopravvento sullo scrittore succede spesso. Dovrebbe essere qualcosa di cui rallegrarsi, ma allo stesso tempo può essere rischioso per l'equilibrio mentale dello scrittore. Tuttavia, ci sono molti modi di creare un personaggio. Il poeta basco Joseba Sarrionandia, uno scrittore evaso dal carcere in un altoparlante nel 1985 e tuttora latitante, di cui vengono pubblicati ogni anno nuovi libri, creò il suo particolare Sherlock Holmes, il giorno in cui evase dal carcere di Martutene. La maggior parte di quelli della mia generazione conoscono il personaggio Sherlock Holmes Sarri meglio di quanto non conoscano Sir Arthur Conan Doyle, essendo Sarrionandia lo scrittore che più abbiamo letto, recitato e copiato. Dovremmo fare uno sforzo speciale per immaginare Sherlock Sarrionandia mentre fa la spesa o si lava i denti. Senza volere, alla foto di Sarri che abbiamo in mente bisognerebbe aggiungere una pipa, elementare, caro Watson, e cercare di dare un altro significato, un triplo senso a ogni parola da lui pronunciata, come se ogni parola detta dallo scrittore fosse una deduzione da prendere in considerazione. Le fotografie non sono mute, non sono innocenti. Soprattutto quelle in cui i fotografati guardano direttamente l'obiettivo. Non dite di non aver mai usato questo trucco. Pensare a qualcuno a cui volete bene per apparire con la sua espressione in fotografia. Sì o no? Sì, quando guardo la carta, la foto della carta, della mia carta d'identità, so, perché si tratta del mio sguardo, a chi stavo pensando quando mi hanno scattato quella fotografia. La fotografia mi parla con la sua voce, come allo scrittore sudafricano David Wright parlavano le labbra di sua madre. Appartengo a una generazione che ha conosciuto Joseba Sarrionandia solo attraverso i suoi libri e alcune poche fotografie. Per me è stato uno scrittore muto, senza voce, fino a poco tempo fa. La prima foto di Sarri che trovo nel mio album è quella che appare nella maggior parte dei suoi libri. Capelli corti, barba, uno sguardo attento. Più di 15 anni fa mi recai in emeroteca con uno spirito feticista per fotocopiare la prima pagina del País del giorno 8 luglio 1985, il giorno dell'evasione. E quella è la seconda foto di Sarri del mio album. Due etarra evadono dal carcere di Martutene a San Sebastian, è il titolo principale. La foto di Sarri non è l'unica in prima pagina. A sinistra, l'immagine del giovane tennista Boris Becker, che a soli 17 anni alza la sua prima coppa vinta a Wimbledon. L'immagine sorridente di Boris Becker non fa che accentuare il contrasto con quella di Sarri Onandia, scattata dalla polizia. Quel Sarri sembra un altro. È risaputo che la polizia sveglia i detenuti a notte fonda, li trascina davanti alla macchina fotografica, a volte li trascina e basta, in modo da assicurarsi che il cattivo abbia davvero una faccia da cattivo. Le fotografie mentono più delle voci. Per questo preferisco sempre di più le voci alle foto. Tornare, a volte, è la cosa più difficile che ci sia, dice Sarri Onandia. Cosciente di questa difficoltà, Sarri, dal suo nascondiglio, si esercita per tornare. Attraverso i suoi libri ritorna almeno una volta all'anno. E qualche anno fa la sua voce è tornata a noi attraverso un CD. Non potevamo certo immaginare che la voce di Sherlock fosse così, ovviamente. Come se in un film Sir Arthur Conan Doyle avesse doppiato la voce di Sherlock Holmes. Quando Yoseba Sarri Onandia tornerà tra noi, il primo appuntamento sarà alle cascate di Reichenbach per assicurarci che Sherlock Holmes precipiti e che Conan Doyle resti fra noi. Ma ovviamente non è così facile. Dobbiamo ricordare che anche Conan Doyle, davanti alle continue richieste e alle lamentele dei suoi lettori, non poté fare altro che resuscitare Sherlock Holmes. Hiruaren galdera. Leioaren zirkitutik aizea sartzen. Zior zeldan, bakar-bakarrik dagoen persoaren erloioa gelditu eginda. Denboraren barea. Leioalboan arizoi bat aizearen gora-beraka mugitzen. Presoak ari-ari, ea ordua dakien galdetu dio. Eta ariak, goruntz, behe muska eginaz, badirudi, baietz, baietz, baietz, erantzuten duela. Go denbora hala bera. Culturale Euskara e dal Dipartimento di Lingua e Cultura Basca dell'Università Popolare di Roma UTER. Chi volesse avere in più informazioni sulla nostra attività, euskara con la K, euskara.it. Grazie.